Vuoi aiutare a curare i parchi, i giardini e gli altri spazi verdi? Se vuoi partecipare alla cura del verde pubblico, puoi firmare un patto di collaborazione con il comune e adottare un giardino, un'aiuola o una panchina. Per maggiori informazioni rivolgiti all'ufficio del tuo quartiere che se ne occupa.